Attento Luca, ci sei in ascolto. Luca, attento Luca, ci sei in ascolto. Dillo che lo chiami tra qualche minuto. Allora, sono un bel po' di trasporti qua, fammi vedere qua. Beh, lì no, forse c'è la pasta che è pronta. Attenzione, sul canale 10 c'è qualcuno? Hola, attenzione 10. Hola, canale 10, prego.